todo amor parsinuangan maraburi luki sopanagana di panadi komi diang berumur ibu nolawang tu siharo murani sosana di dariho hidorus ni horongki soala roha hape abo saguru di tuhani Sagu.